Allahumma lakal hamdu hamdan. A te è dovuta ogni lode, o Allah. Yuafi ni'amaka wa yukafi mazida karamik. Che procura le tue grazie e viene da te ricompensata con l'aumento dell'onore che tu concedi a chi ti loda. Ahmaduka bi jami'i mahamidik. Io lodo te con tutte le lodi di te che ti sono dovute. Ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Ti lodo con quelle di esse che conosco e con quelle che non conosco. Wa ala kulli hal. E in ogni caso. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Chiedo da Allah protezione da Satana il lapidato.